Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Se non ci si dicono le cose in faccia, difficilmente riusciremo ad ottenere un buon livello di comunicazione fra persone, fra individui, sia che si faccia parte di uno stesso nucleo, sia che anche non ci si conosca. Una voce sinuosa, uno sguardo magnetico sorretto da due sopracciglia diaboliche, naso, mento, zigomi tutti sporgenti marcati, a tratti ingombranti. Un orecchino grande quasi quanto un 33 giri, le mani che disegnano traiettorie ellittiche e le dita che si uniscono come piccole clip che pizzicano istanti e ritmi, impilandoli fino a formare la bozza di un romanzo. E poi il resto del corpo, le gambe che dettano i passi, il bacino che segue. Meglio non parlare dei vestiti per non allarmare nessuno. Questa è la foto del protagonista di oggi, uno dei frontman più imprevedibili, scatenati e divertenti del nostro panorama musicale. Faremo come vuole lui, lo guarderemo in faccia. Il suo nome è Piero Pelù. Esistono tanti generi musicali e sono tanti i paesi in cui questi generi vengono suonati. Perché la musica è una lingua internazionale, apparentemente non esiste paletto. Ma è pur vero che alcuni stili rimangono collegati alle proprie caratteristiche genetiche. Il blues non può essere separato dai campi di cotone in cui è nato e da cui si è sviluppato. Il punk inglese è diverso da quello americano. E la musica classica suonata all'aperto non ha lo stesso fascino che le dona un teatro. Si tratta quindi di fissare qualche regola. Dopodiché tutto è permesso. Ecco quello che ha fatto Piero Pelù. Ha capito le regole che doveva seguire e poi ha cercato di infrangere tutte le altre. Ma la musica rock è una cosa che non ha ideologia e che non ha uno stile unico. Si può fare rock in tanti modi. Rock sono i Pink Floyd, rock sono i Rolling Stones, sono i Taxi the Moon, sono generi completamente diversi. L'idea è questa. Portare il rock in Toscana, togliere quella patina anglosassone per sostituirla con una fresca pennellata di sapori mediterranei. L'impresa non è facile, ma quando sei supportato da una innata capacità di coinvolgimento, un'ottima band e uno spirito ribelle, allora hai buone possibilità di giocartela fino in fondo. Bisogna solo capire quello di cui hai bisogno. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché no? Scegliere di fare rock a Firenze è una scelta azzardata. È una città che trabocca d'arte e i bambini viene da immaginarseli tutti biondi e angelici, pronti a intingere le mani nella cultura. Ma Piero ha i capelli neri e un viso che non promette nulla di aulico. Per lui niente passeggiate con il mentore, ma lunghe scorazzate tra i quartieri in cerca di qualche passatempo. E mentre è lì che se la spassa, alcune note gli giungono alle orecchie facendogliele rizzare. Sono coinvolgenti, intelligenti e piene di buon umore. È Enzo Iannacci, unico e immenso. Ecco, pensa Piero, ecco come posso cavarmela, con l'ironia. Ma che bella città, oh, oh, oh. Sento l'acqua alla gola, oh, oh, oh. Forse colpo di mano, oh, oh, oh. Forse è stata la scuola, oh, oh, oh. Io venivo di là, oh. Ma che bella città. Iannacci presto passa la palla a Bennato, un altro che negli anni 70 percorre tutto lo stivale diluendo la propria rabbia e il proprio talento in un secchio di sarcasmo e parole taglienti, di quelle che fanno sorridere e pensare. Questo, oltre a essere divertente, è anche punk, pensa Piero. E così il primo passo verso una vita fatta di rock è compiuto. Dal primo spermatozoide, il blues, Robert Johnson, ancora precedente, diciamo, da tutto questo è nato il rock. Il rock poi in tutti questi anni si è evoluto. Si è evoluto e è diventato un animale che, oltre a usare la chitarra, usa anche tanti altri strumenti. Quindi il bello del rock è che col tempo si debba evolvere, perché se no rimarrebbe un po', come dire, fine a se stessa la cosa. Io trovo che nel rock sia molto importante la ricerca, anche se non è proprio esattamente musica sperimentale, però si possono sperimentare tante cose attraverso il rock e si possono dire anche tante cose. Poi piccole tracce sparse, una chitarra, la Echo e il Dorado Folk che gli viene regalata a 8 anni, la scuola dove sfoggia soprannomi presi in prestito dalla scena punk come Pierrotten, in onore del leader dei Sex Pistols, qualche libro, Salgari e Steinbeck sempre sul comodino, e i dischi naturalmente, Revolver dei Beatles e quella Eleanor Rigby che gli entra nella testa e non se ne va più. Tanto che decide di cantarla registrandosi, la prima vera incisione di Piero Pelù solo voce. Chissà dove è finita. L'ultima e decisiva spinta arriva direttamente dalla Gran Bretagna. È la chitarra di Tony Iommi, il chitarrista dei Black Sabbath, a sgombrare definitivamente il campo a Piero. Stiamo parlando del gruppo che ha riempito lo spazio che mancava sul dizionario alla voce hard rock. In Paranoid c'è un suono cupo e allo stesso tempo vitale, guidato dalla voce inconfondibile di Ozzy Osbourne, che strega immediatamente il cantante fiorentino. È il tassello che mancava al suo puzzle personale, il segnale che attendeva da tempo. Che sia musica allora! Munions è il nome del primo tentativo di Piero. È un gruppo che Pelù mette su verso la fine del liceo con l'intento di fare musica e basta. Ma forse è quello il limite. Se fai musica e basta non puoi avere vita lunga. La musica ha bisogno di motivazioni, di energia. I Munions ci provano. Nel 1980 partecipano al Versilia Rock. Ma non basta. Manca qualcosa e allora tutti nello scantinato a riprovare. E la fine. Ci penseranno i condomini a concludere il lavoro. Capita di sbagliare, ma credo sia anche un po' il bello del tipo anche di concerto che noi vogliamo, cioè che insistiamo, che sottolineiamo di voler fare. Cioè, la nostra non è una macchina perfetta, computerizzata, dove ci sono i gobbi per non sbagliare una strofa, dove ci sono le strutture scritte, dove tutto è sincronizzato col computer del tasterista che sincronizza tutte le luci, le proiezioni e sto par di piste di circo, no? Perché alla fine diventano macchine da spettacolo, ma niente, non c'è niente di umano alla fine. È un po' come fare un disco completamente prodotto da Pro Tools e farsi prendere la mano dalla tecnologia. Cioè, noi siamo anche, ci piace che ci sia anche il margine dell'errore. C'è un ragazzo che si chiama Antonio Aiazzi e suona la tastiera, ha un gruppo tra le mani, ma gli manca un cantante. A Piero piacerebbe entrare nella band, è tutta gente che suona bene, ma pensa che Antonio non lo chiamerà mai. Questo perché, qualche mese prima Piero era andato a una festa organizzata da Aiazzi a casa sua, una festa un po' punk, di quelle che piacciono a lui, e quella sera esagerò e la casa di Aiazzi ne uscì molto provata. Ma Piero piace ad Antonio. I mobili sono un fattore secondario. Io sono Piero Pelù, sono il cantante di Litfiba. Ora presento gli altri. Ringo De Palma, il nuovo batterista. Bello. Antonio Aiazzi, lucidissimo, umido. Antonio Aiazzi alle tastiere. Gianni Maroccolo, il bassista. E Federico Renzulli all'estrema sinistra è il chitarrista. Eccoli qua, pronti e serviti, i Litfiba. C'è un piccolo intruso, per modo di dire, naturalmente. È il batterista Ringo De Palma che si unirà al gruppo qualche anno dopo. Quando nascono nel 1980 a picchiare sui tamburi, c'è Francesco Calamai. Inoltre, tenete a mente il nome di Federico Renzulli. E se per caso qualcuno si stesse chiedendo che diavolo di nome è Litfiba, non c'è problema, siamo qui per questo. Lit sta per l'Italia, Fi sta per Firenze, Bia sta per Bardi. Perfetto. In via De Bardi, perché la nostra storica sala prove in via De Bardi, numero 32, dove ognuno può andare a vedere i murales fatti dalla gente, dove sono nati Litfiba. Il sogno prende forma in via dei Bardi 32 a Ponte Vecchio, dove i Litfiba provano, urlano, si parlano, ballano, bevono e fumano tutto in salsa rock. Esordiscono dal vivo l'8 dicembre 1980. Piero ha un attimo di esitazione, o forse l'ennesimo moto di ribellione, e a un certo punto vuole partire per Londra e non tornare più. Ci va di nascosto il giorno di Natale, ma qualcosa non va. Londra sembra avere esaurito la spinta emotiva originata dai Sex Pistols e a Piero tutti quei ragazzi che parlano di punk sembrano buoni per animare tutto al più i salotti. Si torna indietro quindi, adesso puoi iniziare a fare sul serio. Toro loco, hai quel fuoco, hai quel sole, le parole, come fare, cosa dire, devi solo farti capire. Dicevamo di Federico Renzulli, eccolo, lui non è un magnifico destino, lui è il magnifico destino. Quando si incontrano con Piero si guardano di sbieco, perché Gigo, così lo chiamano tutti, non ha certamente l'aspetto del chitarrista trasgressivo e dannato. Ha occhi piccoli e sporgenti, lo sguardo irriverente e hai sempre la sensazione che ti stia prendendo in giro quando parla. Gigo ha vissuto un annetto a Londra e per vissuto si intende piantare l'università, prendere l'aereo e tuffarsi di testa nella new wave inglese e poi sopravvivere. Quando ritorna in Italia è ancora un po' stordito, tanto da mettersi in testa che il suo magnifico destino sia Raffaele Rievoli, Raff, per chi non lo sapesse. Cosa resterà di questi anni ottanta, afferrati e già scivolati? A sentirlo sembra incredibile. Raff e Gigo, ma davvero ci hanno provato insieme? Sì. Poi, quando tutto sta diventando troppo surreale, Raff svolta verso il pop e Gigo verso Via dei Bardi 32 e tutto ritorna come doveva essere, e cioè Litfiba. Al primo concerto, quell'8 dicembre, Pelù si butta letteralmente sul pubblico dal palco, come ha visto fare all'Iguana Iggy Pop, a braccia aperte. Per due volte la gente è sorpresa se lo vede arrivare addosso e non può fare altro che riceverlo. Ma quando Piero carica la terza, la gente pensa «ora basta» e si sposta e ci manca poco che si faccia del male sul serio. Ma era un messaggio necessario, come dire «io ci sono, sono pronto, io ci credo». Ma si tratta semplicemente di scavare un po' nelle nostre origini, che siano sia culturalmente sia musicali che non. Sì, noi abbiamo cercato di recuperare tutto un bagaglio di cultura che bene o male fa parte della nostra tradizione italiana, soprattutto del sud, proprio perché nel sud ad esempio si sentono molto di più queste influenze dell'invasione dei saraceni e di secoli e secoli di dominazione degli arabi, e sia nell'architettura, insomma, nella musica, nella poesia. E queste cose ci affascinano molto. Ci crede davvero Piero, con quella sua espressione da sbruffoncello che all'inizio un po' ti irrita ma dura poco perché è simpatico e su questo non ci sono dubbi. Ci crede talmente tanto che si mette a studiare forme d'arte espressive come il teatro, il mimo, le maschere, per poi riproporle sul palco. I primi show sono autentiche perle, con Pelù che esce fuori dalla bara e recita versi satanici prima dell'inizio della festa. Ma c'è di più, i testi sono davvero interessanti, c'è un senso di tragicità, di bellezza latente, nascosta in qualche parte, in attesa di rivelarsi. C'è un punto che si vuole raggiungere tutti insieme. L'esercito che passa, Litfiba passano i loro primi 3 anni accovacciati dentro il circuito underground e si sente. E il loro mondo, ci stanno bene, piacciono, cominciano ad avere un nutrito gruppo di fan. Se ne vanno spesso anche all'estero, scorazzano per i festival e per i palchi di Francia, Germania, Svizzera, Belgio. Vanno lì e propongono la loro musica, dura, onesta, senza fronzoli. E in più si distinguono perché, a differenza di molti, loro il rock, il punk o la new wave, chiamatelo come volete, lo fanno in italiano. La cultura musicale è ancora molto legata al varietà, al Festival di Sanremo. Quindi, come è stato uno show che probabilmente lo è ancora qua in Italia, a fare del rock cantando in italiano, insomma, cercando di rinnovare un po' gli stili musicali che sono sempre stati copiati da anni ormai. E lo stesso avviene per il pubblico all'estero, insomma, quando in Francia ai primi anni si conosceva Adriano Celentano o Umberto Tozzi al massimo. Quindi siamo arrivati noi a cantare in italiano, rock, cos'è questa cosa? Piero Ghigo e gli altri farebbero durare all'infinito questo girovagare. È il lato nomade del rock e Piero ha un debole per i nomadi. A un certo punto si fa chiamare Piotre degli Urali per omaggiare la cultura zigana. Ma è un passaggio, almeno questo è ciò che ha dimostrato la storia. Capita quasi sempre un cartello con su scritto «Successo» in mezzo alla strada. Il cartello, Piero e gli altri, lo vedono apparire per la prima volta nel 1982 quando vincono il Festival Rock di Bologna. Un trionfo, anche se Piero è sempre Piero. Sì, mi ricordo che quando vennero a dire che si era vinto, non so se si può dire, io dissi che mi importa una sega, perché in realtà ero... vabbè, ma è così, vedi? Perché? Nella vita succede anche che quando ci sono le cose belle c'è sempre qualche cosa a monte che ti fa girare gli occhi, no? E in quel caso ero talmente in crisi con questa fidanzatina che anche la vittoria di un concorso così, che poi oggi invece parlarne è sempre molto simpatico, un bellissimo ricordo, in quel momento lì non me la son goduta. Perché, mi dirai? Non lo so, sono fatto così. I danzatino Noi Litfiba hanno spaccato, come si dice in questi casi. La macchina funziona. Aiazzi, Marroccolo, il neo entrato De Palma, Ghigo e Piero girano a mille, sfoderando canzoni che trascinano e lasciano in bocca un ottimo retrogusto. Lo show sul palco è sempre meritevole e lo zoccolo duro di appassionati si fa via via più numeroso. Nel 1983 poi entra in scena un nuovo personaggio, uno di quelli destinati a modificare la trama. Si chiama Alberto Pirelli e da poco ha aperto una casa discografica indipendente che vuole valorizzare il rock nostrano. Un destino magnifico, di quelli che farà discutere. Bello, direi che fu una volta quando eravamo a Campotenese, stavamo andando in una varie tournée del sud, ci uscimmo all'uscita di Campotenese lungo tra Salerno e Reggio Calabria, andammo in un ristorante lì molto carino, sbucò il cuoco dalla porta, si affacciò, disse: mi irrettifilo. Che l'hai indimenticato. E questo quando c'hai un nome un po' impronunciabile, no? Però poi c'era anche l'aspetto bello, perché Litfiba, c'era un ragazzo danese che una volta ci seguì per un po' di concerti, diceva Litfiba suona come light fever, come febbre di luce, che non è male, che è molto bella infatti, una cosa qui. Sono storie che si accavallano una sull'altra, quelle che stanno vivendo a metà degli anni Ottanta Piero Pelù e i suoi Litfiba. Storie che spiegano quello che sta succedendo loro in quegli anni. La band comincia lentamente a emergere e il loro nome si diffonde tra gli appassionati, che sono sempre di più. Nel gruppo è più marcata la leadership del frontman, il nostro Piero, e di Ghigo Renzulli, che più il tempo passa più acquisisce sicurezza con la sua chitarra. C'è una tensione positiva nell'aria e ci si comincia a chiedere dove si arriverà. Poi, nel 1983, succede che un certo Alberto Pirelli fonda Lira, una casa discografica indipendente che intende pescare nel rock nostrano. E da quel momento nulla sarà più come prima. Se sei un manager col fiuto e conosci il terreno in cui intendi sguazzare, allora hai buone possibilità di successo. Questo è Alberto Pirelli, uno con le idee chiare. Il nome della sua casa discografica, per esempio, IRA, è l'acronimo di Rock Immortal Alliance. In realtà è un omaggio all'esercito indipendentista irlandese che lotta contro la Gran Bretagna. Ed è proprio questo che Alberto vuole fare, dichiarare guerra al dominio anglosassone del rock. Quando Alberto incontra i Litfiba capisce subito di avere tra le mani un'arma formidabile, ma capisce anche che è altrettanto fragile. Sul palco sfoghiamo un po' tutte le nostre cose che abbiamo dentro. In effetti ci trasformiamo un po'. Ad esempio Ghigo, che è una persona tranquillissima, il più tranquillo di tutti sicuramente, sul palco delle volte si scatena. Piero e compagni sono adrenalina allo stato puro. Sarà un compito duro quello di Alberto, che però ha in mano un jolly, i soldi. È un fatto incontrovertibile. Se fai musica di mestiere e non sei Rolling Stones oppure gli U2, è decisamente dura a sopravvivere. Ci sono gli strumenti da comprare, c'è da vivere in un modo o nell'altro, e soprattutto i primi tempi facendo musica rock per giunta, certo, non è che guadagni le grandi cifre, anzi, spesso certo, e volentieri il contrario. L'operazione successo prende il via con Desaparecido, una piccola bomba che pur esplodendo nel circuito underground riesce a buttare qualche scheggia oltre il proprio steccato. Seguiranno 17 Re, forse il più litfibiano dei dischi, e Litfiba 3, altri due album che andranno a comporre insieme al primo una trilogia dedicata alle vittime del potere di qualunque tipo. Piero è libero di poter dare sfogo alla sua creatività punk e a quella sua voce suadente e misteriosa che ipnotizza. La strada sarà la rotta sotto questa luna, con i suoi problemi, con i suoi compromessi, e che ogni volta non ritrovi mai la stessa. E ci porterà, zingara, e ti porterò. Ti porterò nei posti dove c'è del buon vino, è festa, festa, fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame, balla, balla e poi lasciami qui. C'è una parentesi da aprire prima di chiudere gli anni Ottanta di cui Piero va molto fiero. Pelù non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il Sud e l'influenza che i suoni mediterranei hanno avuto nella sua crescita come musicista. Ed è da quando ha cominciato a esibirsi con i Litfiba che sente il bisogno di aggiungere qualcosa all'immagine di se stesso. Un cavaliere punk, certo, un giullare che canta, balla e seduce le platee con la sua irriverenza. Ma Piero Pelù è anche un animo nobile, che non si vuole limitare ai testi in cui si scaglia contro la pena di morte, la guerra o in favore delle minoranze. C'è un lato poetico che sente il bisogno di uscire fuori. E allora ecco servito un altro magnifico destino. Teresa De Sio. Io sono cresciuta con l'idea che la libertà di espressione, di pensiero, di stampa, di opinione fosse qualcosa su cui è l'unica cosa sulla quale poter costruire un paese moderno, un paese come si deve, insomma. Colta, raffinata, popolare, napoletana verace e poi naturalmente cantante e scrittrice, perché in alcuni casi i due mestieri non si possono separare. Teresa De Sio è una vita che porta in giro le sue sonorità mediterranee. Ha cominciato con Eugenio Bennato e i suoi Musica Nova, poi ha scelto di tagliare il cordone ombelicale per spiccare il volo da sola. La pubblicazione dell'album che porta il suo nome nel 1982 va al di là di qualsiasi aspettativa e vende più di 500.000 copie, perché lei si è messa in testa di innalzare la canzone popolare napoletana al rango della world music. Tanto per darvi un'idea, a un certo punto arriva anche Brian Eno a darle una mano. Avete presente Heroes di David Bowie e Pride degli U2? Dietro c'è sempre lui. E ci siamo limitati al top. Ma la cosa più strana è che poco dopo questo strano duetto si aggiunge Piero, sì, proprio Piero Pelù dei Litfiba, e ne viene fuori un'opera doppia che si chiama Cinderella Suite, dove nella prima parte ci sono canzoni, mentre nella seconda si srotola una storia di guerra e sentimento di 16 minuti in cui il nostro protagonista dà la voce a un soldato. Quella voce, nella mente di Eno, avrebbe dovuto essere niente meno che di Bono Vox. La terra avrà il tuo passo di rombera, giovane rombera, volatrice d'acqua, avrai bocca secolare di memoria odorosa, bocca per corteccia intagliare e sentiero tracciare, risacca di voci future, pioggia di pietre dure, condurrai pesci dorati nel tuo ballo. Le parentesi aiutano a prendere il respiro, ma con l'ingresso negli anni 90 l'aria intorno a Piero si fa sempre più rarefatta. Intanto bisogna dire addio a due guerrieri, Gianni Maroccolo e Ringo De Palma. La separazione da Gianni è un campanello d'allarme destinato a suonare ancora in futuro. Molto peggio va a Ringo, il quale si ritira non solo da Elite FIBA, ma poco dopo anche dalla vita, a causa di un'overdose. Poco dopo toccherà anche al terzo guerriero fare le valigie, a Iazzi. È un vero peccato perché sta giusto arrivando quello che si stava aspettando, il motivo per cui Piero e Ghigo, nonostante tutto, si sono schierati con Pirelli. Il successo. Ma noi non credo ci abbia contaminato granché questo successo, anche perché l'abbiamo ottenuto non tutto d'un colpo. E cioè ottenere il successo tutto d'un colpo è un po' come vincere, fare 13 al Totocalcio, che uno si ritrova con un sacco di soldi che non sa che cosa farne e poi magari cambia. È lì che cambia veramente, perché è una cosa scioccante. Invece in realtà, insomma, ci siamo completamente assuefatti a questa, diciamo, a questo successo che ci è arrivato però dopo 8 anni, 7 anni, insomma. La tetralogia degli elementi, acqua, terra, aria e fuoco, che diventano album, è la scalata di Piero e soci verso l'Olimpo. Ma più si sale, più l'ossigeno diminuisce, finché non si rimane senza fiato. La sequenza è nota nel mondo del rock. Fuori si odono solo la musica e le urla dei fan, dentro vige il silenzio, a volte l'indifferenza. Cominciano i rumor, che subito vengono scacciati con sdegno. Poi arriva una dichiarazione inaspettata, un piccolo battibecco davanti al pubblico. Sapete come vanno queste cose? E i Elite FIBA sono abituati a fingere poco. Se noi siamo delle persone che amano molto dire quello che pensano, di noi stessi prima di tutto, ma anche di quello che ci circonda, delle cose che non ci vanno bene. Troppo spesso siamo considerati un po' scomodi. Naturalmente c'è modo e modo di dirlo, c'è modo e modo di farlo, insomma. È inutile girarci intorno. Firenze, Via dei Bardi, il volo sul pubblico, i tour in furgone, le notti infinite, le dichiarazioni punk, la bara, il distorsore, Pirelli. Tutto viene spazzato via da Piero e Ghigo. I due si squagliano come un gelato al sole e via chilometri di carta dai giornalisti ai fan, i primi incuriositi, i secondi disperati. Perché? Cosa è successo? Di chi è la colpa? Tutta fatica inutile. Come fai a trovare un colpevole a una festa in cui tutti possiedono un'arma? Non c'è un colpevole. C'è solo un dato di fatto. Piero e Ghigo si separano. È finita. Donna meravigliosa, sei donna pericolosa, ti confondi e mi confondi, mi cerchi e poi così. I magnifici destini. Mi piace raccontare l'amore per la vita, l'amore per l'amicizia, l'amore per noi stessi, no? Che sono poi quei sentimenti che hanno molto a che fare anche con il rispetto. Con il rispetto, con la voglia di crescere insieme. E quindi la forma rock di questo album è particolarmente messa a fuoco, evidenziata. Non ho più voluto fare troppi giri di parole, né troppi giri di suoni, diciamo. I Magnifici Destini sta ascoltando insieme a voi con attenzione le parole di Piero Pelù, del nuovo Piero Pelù. Nuovo perché è da solo, i Elite FIBA non ci sono più, anche se qualcuno di loro ha deciso di seguirlo nella sua nuova avventura. E per la verità i Elite FIBA non spariscono, ci pensa Ghigo a tenerli a galla. Ma non è la stessa cosa, su questo molti sono d'accordo. Ma è un Piero Pelù nuovo, anche perché ogni separazione degna di questo nome non si limita a dividere, ma modifica e lascia il segno. Ora il futuro non è più quello che si prospettava insieme ai suoi compagni in Via dei Bardi 32. È un grande punto interrogativo. Bisogna reagire, ora o mai più. Il mio nome è mai... bella sensazione si prova quando succede qualcosa che ci destabilizza e gli amici, i colleghi, si prodigano per tirarci un po' fuori di casa, per farci sentire meglio. Certe volte, pur con tutta la buona volontà, il risultato è un gran pasticcio. O arriva troppo tardi o viene messa troppa irruenza. A Piero gli va di lusso. Siamo nel 99. Lui è ancora in giro con i Litfiba per il loro ultimo tour. Uno strazio a livello psicologico, perché per lui è come se la bara da dove usciva durante le sue prime folli esibizioni non si aprisse più. Poi però un giorno arriva la telefonata di un nuovo magnifico destino. Giovanotti, o forse era Ligabue, e improvvisamente la sua testa torna a riempirsi di luce. Io non lo so, c'ha ragione che no. C'è una questione che è economia oppure solo pazzia, difficile sapere. Il mio nome è Mai Più, è il classico colpo vincente. È vincente anche per le motivazioni che hanno portato alla sua composizione. Un messaggio forte contro la guerra, quella del Kosovo, che poco lontano dalle coste italiane infiamma città e case. Il pezzo di Ligabue, Giovanotti e Piero finisce addirittura in Mondovisione durante il Live 8, la manifestazione canora del 2005 organizzata dal mondo internazionale della musica per indurre i governi delle nazioni ricche a cancellare il debito di quelle più povere. E in Italia, naturalmente, la canzone vola al primo posto delle classifiche. Per Piero Pelù è la dimostrazione che la vita senza i Litfiba ha un senso, che la sua ricerca può continuare, che la sua carriera ha ancora molte pagine bianche. Però non è venuto qui a ritirare un premio, ma bensì a farci un regalo. Ed è venuto in compagnia di una sua amica, devo dire, sono due voci veramente straordinarie. Con l'amore immaginato, Piero Pelù e Angun. Una di queste pagine bianche si colora con la voce di una cantante che arriva da lontano, molto lontano dalle sonorità del rocker fiorentino. Arriva dall'Indonesia. Ha una voce antica, adatta a cantare le gesta degli dei indiani. Lei è Angun e Piero si lancia con lei in una collaborazione in cui si allontana dalle sue ritmiche, fondendo la sua voce potente con la leggerezza dell'usignolo Angun, realizzando il brano L'amore immaginato. Ma non è l'unica occasione. Piero si getta in un lungo periodo di intenso lavoro in cui alterna collaborazioni, album ed esibizioni live. È un Piero più adulto, più concentrato, con un look meno aggressivo, ma certe cose non sono cambiate. Il circo, il teatro, le arti di strada fanno tutti capolino nelle sue produzioni. E ogni volta che c'è l'opportunità di essere presente a qualche manifestazione contro la guerra, a favore delle minoranze o semplicemente organizzata da qualche amico, lui c'è. Ma sotto sotto c'è qualcosa che vibra. E allora scendi, scendi. Guarda, sicuramente ci siamo ricalibrati bene, meglio, sicuramente molto meglio di prima e naturalmente al meglio come al peggio, purtroppo sappiamo che non c'è limite, però noi ora stiamo viaggiando in una direzione positiva, quindi il fatto di comunicare tra di noi tanto, di dirsi in faccia tutto quello che non va bene, perché è così che si va avanti e non tenendosi le cose, rimuginandole dentro e poi dopo perché però affanculo allora, no, non va bene. E quindi di quello lì direi che senz'altro abbiamo fatto tesoro, perché se alla fine degli anni 90 abbiamo litigato è stato principalmente per quello, poi per il grande successo eccetera, ma è stato tanto perché non comunicavamo più bene tra di noi. Aveva ragione Piero dall'inizio, è tutta una questione di comunicazione, di dirsi le cose in faccia come il titolo dell'album da solista, il penultimo prima di andare a cozzare nuovamente con il primo insostituibile magnifico destino, Ghigo Renzulli. Doveva succedere, molti se lo aspettavano, altri ancora si sono prodigati affinché accadesse. Nel 2009 i Litfiba resuscitano, uscendo dalla bara in cui si erano rinchiusi. Pelù e Renzulli sono di nuovo insieme e questa volta non arriverà qualcosa o qualcuno a rovinare tutto. E infatti, tra le prime cose che ci siamo detti quando abbiamo capito che si poteva ricominciare, era una delle prime cose, si è detto facciamo veramente quello che cazzo ci pare, ragioniamo di cosa ci piace veramente fare, cioè lasciamo perdere quello che abbiamo fatto alla fine degli anni 90, che purtroppo ha segnato la nostra fine. E quindi si è venduto tanti dischi, sì va bene, ma mica... non è che ci sputiamo sopra, però di fatto è stata anche una delle ragioni del nostro del fatto che le nostre strade si siano separate. Ai posteri l'ardua sentenza, come si dice in questi casi, ma a guardare bene è difficile non essere un po' contenti di questo ritorno a casa di Piero. In fondo è lì che è cresciuto, dove ha imparato a muoversi, cantare, ballare, intrattenere le platee con uno stile unico. E Gigo conosce bene il sound che serve per supportarlo. È un periodo in cui le reunion delle band vanno di moda quasi come lo spritz. Ma finché a stimolare la voce di Piero sarà la fiera battaglia che è iniziato tanti anni fa, allora siamo sicuri che non ci saranno rimpianti. Balli dove il sertao, sole e deserto fanno il samba su di me. C'è chi balla qui, ma forse questo è un brutto sogno e poi mi sveglierò.